Aspetti un momento. Aspetti un attimo. In piedi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che il suo impegno assume, si impegna a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza. No, deve dire mi impegno e non va bene. Si accomodi. Ricorda se quel pomeriggio si trovava al parco Falcone Borsellino? Sì. Ricorda più o meno a che ora si era recato al parco? No. Era mattino o pomeriggio? Pomeriggio, perché era pomeriggio. Lei ricorda se era andato da solo o in compagnia al parco? No, mi sa che c'era un altro ragazzo. Era in compagnia di un altro ragazzo. Ricorda chi fosse? No. Che cosa ha fatto quando è arrivato al parco? Dell'hashish. Scusi? Ho preso il fumo, l'hashish. Ha comprato del fumo? Sì. Ricorda da chi ha comprato il fumo? Beh, da un ragazzo tunisino, poi a lui è del palestinese, vabbè, da un marocchino, diciamo. Da un cittadino extracomunitario? Sì. Lei l'aveva già vista quella persona? Sì. All'interno del parco? Sì. La conosceva personalmente, aveva già acquistato hashish da lui? No, non da lui, non l'aveva acquistata da lui, però lo vedevo lì al parco, in giro. Ricorda quanto hashish aveva comprato? 5 euro, dai, due canne, euro. Dai. Veniamo avvisati. Lì vabbè a far su con una canna e sono arrivati due poliziotti. Cioè, sono arrivati lì, è polizia, e mi hanno preso, no? Tira fuori la roba, gli ho detto che roba, il fumo, bene, gliel'ho dato. Poi m'han preso. Quindi erano, scusi, andiamo con calma, erano due uomini che si sono qualificati, erano in borghese o erano in No, vita? In borghese, ma erano non hanno fatto vedere il tesserino, cioè a me mi ha già fermato la squadra mobile, fanno vedere il tesserino, la paletta o qualcosa. Allora, non le hanno fatto vedere il tesserino, però le hanno detto polizia. Sì, così... vabbè, ma anch'io posso andare da lei a dire la polizia, non cioè. Non c'è bisogno che allora guardi signora Longi, le chiedo una cortesia, lei risponda alle mie domande senza far commenti. Ah, ok. Va bene. Allora, quindi si sono avvicinati due uomini in borghese, l'hanno detto polizia, tira fuori la roba. Lei che cosa ha fatto? Io ho dato il fumo. Lei ha dato il fumo. Loro sono venuti lì, non è che hanno detto polizia municipale neanche, perché cioè polizia municipale fa le multe, dai. Cioè, mi sono venuti lì polizia, no? Vieni con noi e boh, basta, cioè senza far vedere. E cioè si sono presentati come polizia? Eh? Si sono presentati a lei come polizia? Sì, vabbè, a voce, ok. Cioè, dentro di lei ha pensato polizia di Stato. Sì, perché diciamo la verità, cioè la polizia, c'hai paura un po' quando c'è il fumo, anche dei carabinieri, ma della polizia municipale. E vabbè, a prescindere dal suo timore rispetto più o meno ai corpi di polizia istituiti con legge dello Stato, Le chiedo, quindi lei ha, in quel momento, quando ha sentito dire polizia, ha pensato alla polizia di Stato? Sì. Le hanno chiesto gli agenti poi di consegnare la sostanza, l'hanno perquisita? Sì. No, l'ho tirato fuori io. Ma gliel'hanno chiesto loro di mostrare? Beh sì, sono arrivati lì, tira fuori la roba è l'eroina, io gli ho detto io non c'ho la roba, tira fuori la, tieni, gliel'ho dato, cioè basta, è finito, c'avevo due canne, c'è cioè, un pezzo così, non c'avevo mica un chilo, Vi ha stupefacente? Sì. Era poco, era... Non so dire adesso in termine generale che ho preso, che la chiamino una caccola, non so dire adesso il termine. Poi che cosa è successo? Poi mi hanno fatto andare verso via Mantova a braccetto, mi ha minacciato ti prendiamo a schiaffi. E gli ho detto scusa, ma vabbè. Prego. Posso? Gli ho detto, cioè avete già il mio portafoglio, mi hanno preso anche il portafoglio, cioè avete i miei documenti, cosa mi strattonate? Tanto non scappo, cioè avete i miei documenti. Sì, ti conviene perché sennò finisci male, cioè ti prendiamo a schiaffi, cose così. Però non gira assolutamente mai. Che cosa è accaduto? Niente, mi hanno caricato sulla macchina e sono andato in via del Taglio. Ora intanto lei ricorda su quale autovettura è salita? Era una bella da Dio, la Mazda. Cioè, io ero dietro, c'era tutto di plastica, il vetro, e davanti c'era le due, uno che guidava e un altro era in un forno. Quindi erano due persone diverse, sì, da quelli che l'avevano che poi non ho più visto via del calcio. Cioè, poi dopo non l'ho più visto. Tanto ricordo in quale sito è stato passato? Non ricordo. Cioè, ho fatto degli scali, non mi ricordo. Lei c'è della polizia municipale, c'era qualcuno? Ah, sì, c'erano quelli in borghese, erano tutti straesaltati. Un po' è passato anche Bonsu, cioè il ragazzo di colore, ed era tutto cioè era china col coso, con ammanettato il viso chinato, mi ha dato un guardato, no, un attimo, e ho notato che era strapestato, cioè saccagnato, cioè era messo male, cioè. Scusi, allora era ha detto saccagnato, cioè saccagnato, che cosa era? Lo vedeva visivamente, sì, c'aveva da... era gonfio, c'aveva l'occhio rosso, cioè c'aveva un occhio che, cioè, sembrava manco avesse combattuto con Mike Tyson, vabbè, ai tempi d'oro, cioè nel senso quando proprio tirava giù di brutto. Cosa fanno, che cosa fa questo ragazzo? Niente, ho sentito ancora, quel negro di me, Allora, le espressioni e le frasi che lei ha sentito le può dire, deve dire quello che ricorda. Ecco, il negro di merda, la scimmia, quelle cose lì lo sfottevano perché è nero, hai capito? Allora, lei sente, in quel momento, sente chi dire negro di merda, scimmia? Dei vigili, cioè, erano quelli che poi... quelli in borghese che hanno fatto la retata, cioè erano tutti straesaltati. Allora, queste frasi che lei sente, lei ha fatto pure il gesto, che forse è il caso di descrivere, perché di mettere la descrizione a verbale. Il testo riferiva, scusi signor giudice, che di aver sentito i vigili in borghese dire all'indirizzo di questo ragazzo di Bonzo negro di merda, scimmia, e poi se mi può rifare il gesto perché... vabbè, dai, ha capito, la scimmia, cioè, okay. E poi quando l'hanno accompagnato lo spingevano, cioè, proprio in maniera cattiva, capito? Cioè, roba da vergognosa. In quale stanza era lei? In quella dove sono stato tutto il tempo, sono stato in una stanza. E quindi... queste voci da dove provenivano? Da dentro la stanza. Dalla sua stanza? Sì, è negro di merda, scimmia, Hai capito? Allora anche qui le devo fare una contestazione. Mi riferisco... Anche dal corridoio sentivo delle voci offensive, comunque. Cioè... Lei frequentava quel parco qualcosa? Sì, certo. Andava spesso? Sì, In quel parco aveva mai notato questo ragazzo, per quel che ricorda? No, mai visto, ma mai, cioè... L'aveva mai visto insieme allo spacciatore, quel ragazzo? Ma assolutamente. No. Cioè, poi gli spacciatori si riconoscono, ognuno ce l'aveva lo da spacciatore, cioè, poveretto. Quindi lei ha, diciamo, lei dice, io, so... Lo vedo se uno è il marocchino spaccia, si vede dalla birra. Ma ci spieghi un attimo, qual è la caratteristica essenziale di questo atteggiamento che lei dice? Le Nike, i bei vestiti, il cappellino, giacca dell'Adidas, cioè vestiti da fighetti, cioè vabbè, si vede, dai. Lei non lo riteneva uno spacciatore? Ma assolutamente. Lo poteva ritenere un palo? Ma neanche. Neanche? Un palo è sempre uno che c'entra con lo spazio. Neanche... Poi i pali... Cioè, troppi film americani, il palo, lì c'è, cioè, entri, prendi il fumo e vai. Allora le devo fare una contestazione. Va, che domani. A domani, io chiedo, sì, che almeno nei confronti dell'avvocato, sì, ci sia un rispetto. Almeno Longi, nei confronti dell'avvocato. Signor Longi, la prego, formalmente, mi scusi. Longi, senta me, lei deve rispondere. Perché è obbligato a rispondere alla legge. Sì, ho capito, però non posso mica stare, cioè... Signor Longi, io le ho detto che se lei ha dei problemi... Non ho bisogno di una pausa, avrei voglia di finire. Vabbè, però cioè... questo purtroppo deve dare la possibilità a tutti di fargli le domande. Intanto e deve il rispetto, stia a sentire me, deve il rispetto della funzione a tutti coloro che sono qua dentro. Come loro l'hanno avuto. Vabbè, dai. Per favore, non commenti. Prego, avvocato. Grazie. Ricordo di avere immediatamente notato il volto del ragazzo che presentava un'evidente tumefazione ad un occhio, tanto che ho pensato che fosse un complice dello spacciatore. Perché l'ho visto ammanettato, cioè se io vedo una persona ammanettata penso sia un criminale, no? Quindi se io ho visto il tunesino, è passato, ammanettato, poi dopo è passato anche Bonsu, ho detto, boh, sarà un suo complice, ho capito. Perché c'era ammanettato anche lui. Quindi vorrei, se permette avvocato, una precisazione. Le è mai capitato? Allora, posso? Sì. Allora, io ho fatto la strada, allora il palo è una cosa da film. In pratica il palo, cioè cos'è? Uno che sta fermo e guarda se arriva la polizia. Ma lui era da solo, gira in bici e vedeva lui se c'era la polizia. Il palo lì al parco non c'è mai.